Europa 24. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchisi, questa è Europa 24. In primo piano la strigliata all'Italia, al suo sistema politico, del capo dell'esecutivo di Bruxelles, Barroso, nella riunione del gruppo parlamentare del PPE a Strasburgo. Scarse riforme e poco coraggio nell'affrontare il debito pubblico. Il presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso, bacchetta l'Italia e tutto il suo sistema politico. Una strigliata arrivata ieri sera durante la riunione del gruppo parlamentare del PPE a Strasburgo, riferita dal capogruppo di Forza Italia, Baldassarre, confermata da una serie di fonti neutrali e non smentita dalla portavoce della Commissione. Sta di fatto che Barroso avrebbe detto che l'Italia non ha saputo affrontare sacrifici fatti invece da altri paesi come Grecia, Spagna, Irlanda, Portogallo, che alla fine sono stati premiati. E se Baldassarre fa suonare la critica come diretta al governo Letta, emerge che l'obiettivo è più ampio. Per il capogruppo del nuovo centrodestra, Giovanni Lavia, Barroso non faceva riferimento a misure prese negli ultimi mesi dal governo Letta. Insomma, una critica sull'azione complessiva del sistema Italia. Il numero uno della commissione avrebbe anche invitato i partiti italiani a smetterla con lo slogan "se c'è austerità non c'è crescita", mettendo in guardia in vista delle prossime elezioni. Amici italiani, se credete di vincerle dicendo che darete tutto a tutti sarà un disastro e avremo perso tutti credibilità. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Riformarsi o declinare? Dalla Gran Bretagna, che nel 2017 terrà un referendum sul suo futuro nell'Unione Europea, arriva il monito ai 27 partner. Without economic success, the EU will not be regarded. O l'Europa cambia o Londra se ne va. La partita a scacchi tra la Gran Bretagna e l'Unione Europea ha vissuto ieri una nuova tappa con il discorso del cancelliere dello scacchiere George Osborne. L'Europa deve riformarsi, ha detto Osborne, sottolineando come vadano maggiormente preservati gli interessi dei paesi non aderenti all'area euro. Osborne cita i fronti sui quali l'Europa vista da Londra presenta maggiore necessità di riforme, tra questi il bilancio e la competitività. In sintesi, dice, gli attuali trattati sono inadeguati. Ne serve uno nuovo, come serve concludere rapidamente l'accordo di libero scambio con gli Stati Uniti, dossier cui Londra è molto sensibile, anche per evitare una marginalizzazione europea nell'economia mondiale. La filosofia che anima la Gran Bretagna è chiara, nelle parole del cancelliere dello scacchiere: dobbiamo stare in Europa, non dobbiamo essere governati dall'Europa. La partita a scacchi si preannuncia ancora lunga. I conservatori britannici, già sufficientemente euroscettici, sono insidiati sul proprio terreno dal rischio di una valanga di voti per lo UKIP, formazione apertamente anti-europeista alle prossime europee. All'interno degli stessi Tories esiste già una frangia di parlamentari ostili a Bruxelles. Quasi un centinaio hanno chiesto a Cameron di introdurre un potere di veto per Westminster riguardo all'applicazione interna delle direttive comunitarie. La minaccia Osborne la sbandiera: senza riforme potremmo dover scegliere tra aderire all'euro o lasciare l'Unione Europea. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La Commissione Europea lancerà una nuova procedura di selezione per il posto di garante europeo alla privacy. Non è un problema di nomi, ma di competenza, spiega il popolare Salvatore Iacolino di Forza Italia al microfono di Cristina Carpinelli. Io ritengo che accanto alle valutazioni tecniche dell'ufficio personale, integrato da una componente esterna alle istituzioni europee, vi possa essere una valutazione affidata, come giusto che sia, al Parlamento europeo. Peraltro sono passati 6 mesi, vogliamo comprendere anche quali costi sono stati sostenuti a carico del contribuente, farci un'idea compiuta su una vicenda che a noi sembra avere parecchi dubbi. Ci sono in questa nuova, diciamo, presentazione di candidati degli italiani? Dobbiamo definire, lo faremo la prossima settimana, quale sarà la procedura da portare avanti, cioè se rinnovare un bando, un avviso sul posto vacante, garantendo la continuità con l'attuale ufficio, o se invece rivedere la buona sostanza queste stesse procedure che sono state attivate il 31 luglio e dare effettività ad una procedura che sostanzialmente va avanti da circa 6 mesi senza alcun risultato apprezzabile. Ma tutto questo lo porteremo avanti in occasione del prossimo incontro della Commissione Libertà Civili, quindi entrambe le opzioni sono al momento al tappeto, nuova procedura o riesame di quella che è stata portata avanti nel corso di questo mese. Per Europa 24 di quest'oggi vi saluta qui Daniele Biacchese. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.